Ma come si chiama? Ciao Dani, buonasera. Sì, ciao Natalino. Ciao Tino. Ciao Dani, ciao a tutti, ciao ciao. Sono qui a Correggio. Ma sei con la radiolina piccolina? Come sei? Con la mia classica. Ah, con quella normale, sì. Pensavo che fossi con quella più piccola che c'hai dentro la casetta. Ah, no, no, no. Rimango chiuso, 24 su 24 lì. No, no, sono a casa ora. Ah, no, perché mi stava arrivando il segnalone, è per quello che te lo sto dicendo. Ma no, una radio vintage, piccolino, 23 canali, non è che... No, vabbè, di radio già si sempre bello forte. No, il segnale stavo guardando. Cazzo, un altro pochino che mi è messo la manopola. Vabbè, questo è il grande, diciamo. Ah, già va bene, era un bel segnalone. Ma sei con la verticale o con la direttiva? Non voglio dire direttiva, ho la manta per basta. Vabbè che siamo anche vicini. Va bene, dai, sono qua, devo fare un documento, dai, ci sentiamo. Ok, da dopo. Vai Natali. Ah, Dani, saluto, dai. Che Margherita gli hanno portato fuoco a casa. Addirittura. E gli ha anche preso al comune, gliel'ha chiusa. Urata. Ai ai ai. A conza e allora. Cazzo, un pericolo me. Un pericolo, cazzo. C'è anche una bomba là dentro, siamo venuti in tempo. Siamo ben cavallo tu, cazzo, sai, aveva fatto danno, Riccardo, voglio lasciare da Trento. Che carità, cazzo. Tanto va come in te, conviene muri, no. Infatti, non so che gusto c'è. Che gusto abbia a vivere così. Ah, è una sozzona. Una sozzona proprio nel vero senso della parola. Bucacciona, non si lava mai. Con un fiacco in naso che non si dice, va là. E tra gli zendi non lui. E beh, cosa stai combinando? Ah, niente di che, niente di particolare. Nudda. Ma che da cosa mi hai procurata del paraurti, no? No, non è entrata neanche una di quelle macchine ancora lì. Niente. Neanche la chiave, zero. No, non ho procurato ancora niente, perché non è entrata neanche una macchina di quelle. Ehi, ehi. E niente, no, non sto combinando niente. Vabbè, qualcosa sì, ma niente di particolare, là. Ah. Ascolta, era di Zendi, no? Però la chiave SDR, tu ce l'hai, vero? No, non so ma cosa sia. È questa cosa che si attacca sul computer con l'antenna del suo baracchino. Beh, la chiave SDR che ti fa sentire, anzi, vedere dal computer tutte quante le frequenze che stanno andando viaggiando, là. No, non ce l'ho, Dani, mai avuta. Ah, mi sono bloccato un passaggio perché mi mancano i driver. Mi mancano gli ultimi driver per installare tutto quanto. Dovresti chiedere a qualcuno che ce l'ha. Io non ho mai avuto, non so come funziona. No, vabbè, puoi scaricarla anche da internet. Però quella che c'è su internet l'ho già scaricata e non va. Non spinge, no. Colleghi la chiavetta già col programma. Accendi e viaggia solamente internet. No, non funziona. Non so ma come, ripeto, non so ma come funziona, non so ma come è fatta. Cos'è tipo la... come si chiama? La chiavetta USB, da. Mi lascio, ti invio la foto. Vai così, Anto. Yeah. Ciao Anto, Marco da questa parte. E beh, ti stai godendo l'impianto, ah? Bello, è veramente notevole. Ma bello, eh? Oia! Senti che le sento giù, vai! Adesso mi tiro la roba stesa e poi mangiamo qua. Ci sentiamo Antu, ciao. Sentiamo l'uomo. Ah, c'ha 5 secondi di bianco. Abbiamo ripreso in due, chi è? Danilo? Sì. Io sono entrato che ho sentito già la musica, eh. Ho detto Antu, io stacco che devo ritirarmi la roba e quant'altro e mangiare. Ci sentiamo più tardi. Ho chiesto chi c'era, ma siete in ruota? Interrogativo, Danilo. Io sono entrato poco fa, anzi, neanche 5 minuti, e c'era Dino, Luca e basta. Ah, e Natalino. Ah, c'è entrato Antonio con la musica maletta, però c'ha il dito veloce. Pare che vendere un guizzone. Pare che stia a vendere un guizzone con un dito veloce. Non ti fa manco il tempo di parlare. No, comunque dai, già se non sono qua sono in banda laterale. Ciao a tutti, ciao a tutti, buona serata, ciao ciao. Andiamo, andiamo, lavori, chi è? Ciao Marco, vabbè. Oh, Luca. Ehi Atti. Ti voglio chiedere una cosa. C'è presente quando apri WhatsApp, no? Allora, questo telefono sta funzionando così. Apri WhatsApp per ascoltare l'audio. Se clicco per ascoltarlo a distanza, praticamente lui diventa nero e devo ascoltarlo per forza nell'orecchio, non fa più in così dice, in viva voce. Cosa può essere successo? Vabbè, fa una cosa, siccome ti hai toccato qualche impostazione, dovresti controllare, sai che cosa, la regolazione audio del telefono, se è tutto a manetta. Sì, credo di sì, quello sì. Sto pensando invece a un'altra cosa, non so se ti ricordi il telefono che ho. Ha quel sensorino che quando tu lo avvicini all'orecchio praticamente così c'è, legge che lo stai oscurando e quindi ascolti l'orecchio. Sto pensando che magari per via del lavoro, magari perché ce l'ho sempre in tasca, che sia entrata un po' di polverina nel visore, diciamo. Ah, pure, sì pure. Poi che telefono è? Il J5, gli avevi cambiato il vetro. Ah, polarsiti. E prima te lo faceva? No, prima ascoltavo i video tranquillamente, per dire a distanza, ascoltavo, lo sentivo in mia voce. Ma so poi come c'è che guarda, sta dando un fastidio, anche perché le cose dell'audio sono a manetta, cioè ce l'hai laterale, quindi in multimedia ce l'hai così. Ascolta, fa una cosa, mi sa se ce l'ho che quello è il problema. È in chiamata, o tu chiami, il telefono rimane sempre acceso. In chiamata? No, quando lo appoggio l'orecchio no, si spegne. E quando lo stacchi si accende? Quando? Quando lo stacchi, lo allontani, si accende? Adesso sinceramente non me lo ricordo. Perché se funziona non è il sensore di prossimità. Aspetta, ti mando un messaggio su WhatsApp un attimo. Andiamo, andiamo. Ascolta l'audio e poi ne va a vedere muami. No, non ti ho capito, ripeti. No, a Luca per voi ce l'ho. Oh, non lo sento io a Luca in radio. Ascolta, a te capita batteria gella a scarica lenta? Dino, mi hai fatto una domanda da 1 milione di euro. No, non entrano di quelle batterie, magari veramente. Non so, ma essere già anche preso io. Comunque posso chiedere a uno che fa questi lavori qua di accumulatori di carica. Sì, ma sono almeno due, però della stessa grandezza e capacità, diciamo. Io già ce li ho due da 100 ampere al gel, di quelli degli accumulatori, quelle blu, quelle che sono lunghe e strette, però quelle non te le posso dare perché mi avanzano solo per, che mi avanzano per il camper. Tutto quanto il resto ce li ho, di quelle lì ce li ho nell'impianto che c'ho io. Ah, ho capito. Vabbè, se, se ti capita, tienimi in considerazione. No, per quello non ti preoccupare, già io ne cerco sempre di quelle batterie, perché secondo me i camperisti me li chiedono. Comunque già, se entra qualcosa già te li faccio subito sapere. Comunque lunedì adesso provo a chiederglielo e vediamo cosa mi dice. Mia, mia, ma se siamo buoni a Tommy, cioè non è che ritornano dopo di lampi. Guarda, queste che ho io, che sono nuove, nuove di pacchia, neanche un anno di vita, da 100 ampere me le ha fatte 100 euro l'una, in poche parole me le ha regalate, dal prezzo che costano. Lo so, lo so. Sì, anche a me mi servono per quello, capito? Vabbè, vedi un po', se da... adesso non radio, sentiamo. Vabbè, se non, se non ti trovo in radio chiedo a Luca e ti faccio sapere da tramite Luca, no? Non ho capito, chiedi a? Chiedo a Luca e ci sentiamo tramite Luca. Ma guarda, sinceramente sparito dalla, dall'angolo della terra, quindi non, non credo di sentirmi con lui. Vabbè, già avrei voluto di sentirmi diversamente, già ci sono altre persone che puoi contattare per il mio numero. Vabbè, Luca Podighe, oppure Tino, non la metti i nomi, buonanotte, Claudio. Ci mettiamo in contatto tramite loro e vediamo cosa mi dicono intanto già da lunedì. Sì, sì, sì, non c'è problema. Sì, chi da loro già, già te lo girano, no, non c'è problema, fa provare tranquillamente. Ok, da. Se, se sento qualcosa già ti faccio sapere subito, senza problemi. Tanto già qualcosa ogni volta, ogni tanto già la procuro io. Comunque già, già ti faccio sapere. Eia, eia, eia, va bene, va bene. Luca mi sta mandando un buono messaggio. Va bene, sì, perché mi interessa, devo prendere, devo sostituire, quindi mi servono insomma per tenere carica. Io ho 5 di quelle batterie, 500 ampere, cioè in poche parole. Tu pensa, con i pannelli solari più l'eolico, io in poche parole la luce esterna ce l'ho tutta quanta gratis tramite le batterie. Di giorno caricano, poi quando arriva quella, a quella luminosità di lux, prende e parte la luce. Poi in garage ce l'ho con un interruttore, tutta quanta a 12 volt. Mi sono fatto tutta quanta l'impianto a 12 e sto qualcosina la sto risparmiando, no? A parte la luce di casa, ragazzi, chi c'è di Vardinici di Gabugna Vulta, chi so che accorgia più la massaggia che d'uno, di Lener. Comunque già, già risparmi molto con quello. Scusa, lei è un abbasso in corso, sentiamo dopo. Ok, da. Ora, ora, ora, ora, ora, siamo qua, siamo qua. Bergerac à l'écoute. On va passer à la fréquence 14 Delta Bravo. L'opération d'Ouest de France, la ville de Bergerac à l'écoute. Eric, passe sur le nord de France. Les amitiés de l'opérateur Daniel, sud-ouest de France, kilomètre à l'ouest de la ville de Bergerac, là. Voilà, c'est 73. Natation à l'air, nord de France, département 02 pour l'opérateur Daniel. Attention à l'air, département 02 pour le sud-ouest de France, l'opérateur Daniel, le département pour l'attention à la fréquence 14 d'Est. Oui, la station pour le département 73. Non lo sente lo spagnolo che sta abbaiando dalla Spagna. Ma che non si ammazza. Dai, aspetta che sto ritirando tutto, ci sentiamo dopo. Ehi, dopo devo fare un giro e. No, quando capita, ci mancherebbe Anton. Dai, buona serata, buon tutto. Ehi, qua. Non sei grazie con lo stadio di casa noi oggi. Aspetta che ho sbagliato, ho passato la mano per sbagliato, ho passato il volume, dimmi. Momento che non sei con lo stadio di casa. Non sono con il segno di casa. Non ho il segnale mio. Ho detto che non sei con lo stadio di casa qua. Stereo, sai cosa vuol dire stereo? Non sei con lo stadio di casa. No, canto, non capivo cosa intendevi appunto. Guarda, girando le coglioni, attacco 200 watt della figlia, con le catena. Ah, cazzo, buono l'abbordante. Oi. Dai, lasciamo il cuore, dai. Ok, lasciamo il cuore, che non ci dai. Passo almeno. Li passi sopra, li passi. Vai, giucciamelo. Innescando già. anche cupissima, Gianni. Datemi un'oretta, cioè una mezz'oretta, datemi e arrivo. Male, malissimo già. Sai, a parte ne scambio, è cupissima, cupissima e barattolata. Mai sentito così male. La vuoi sentire? Oh, non mi sente. Passaggio lungo già. No, no, male, male già. Innesco, è cupissima. Io ho detto, se vuoi te la faccio sentire, ma è veramente brutta. Non ti capisco. Marco, sì sì, troppo. Marco Condor, sì sì. Adesso va. Ah, io ho la portante, c'era. Adesso va Gianni, ciao Luca. Ciao Marco, ti sono stato poco fa. Sì, c'era la portante poc'anzi, quando ero con Bombolo. Vabbè. Stavo dicendo, ti diamo la portante, c'è. Ma io, Luca, ciao. Io quando sono entrato ho sentito Antonio che stava dicendo cose, tu non vedi se è buona la portante. Però non ho sentito nulla, sono entrato dopo. Ma per carità, cazzo. Almeno copre gli spagnoli però. Sono francese, aspetta. Attenzione amici, tutta l'isola della Sardegna. Attenzione amici, tutta la Sardegna che ti fa pelle. Attenzione amici, la Sardegna che ti fa pelle. Ici è la stazione del ferroviario della ville di Sassari. Salumi. Ehi, già. Aspetta qua a apparecchio, non mi piace. Andiamo, vai, andiamo. Vabbè, Marco. Andiamo a Agnelli, facciamo colazione, stai. Fatta. Sto aspettando che passino qua a fare un giro, però io le non mi voglio essere a casa. Se no si le abbiniano in luci. Come sei, in giro in macchina? Ehi. Come sei? Aspetta, lui lascia un po' di bianco. Aspetta che sia caduta la portante. Ho detto dove sei? No, un giretto senza impegno, così. Ah, ok. Tanto è tutto chiuso, non puoi pigliarti un caffè. Niente, è uno schifo. Lunedì forse migliora, boh. Non lo so, zona gialla cosa vuol dire? Insomma. Qualche passo in più, ma niente di che. Ma lunedì i bar rimangono aperti fino alla chiusura o sempre alle 18.30? Allora, dovrebbero... Beh, la zona bianca però, come si chiama? Invece dalle 10, coprifuoco, alle 11 o mezzanotte. Vabbè, anche se mi andare in giro di notte i locali sono più chiusi, non serve a molto, vabbè. Vabbè, per un piano, comunque la Sardegna è la meno contagiata. Ah, abbiamo un eretto pasto, via. Vediamo cosa ci esce. Attenzione, un amico della France, c'è qui sulla Sardegna. Stiamo sempre parlando stanno, non lasciano bianco. Saranno in qualsiasi locale, poi ricordate che i francesi sono altezzosi, No, ma già rispondono. Hanno finito, continuate. Come sta andando questo apparecchio? Così almeno va bene. Sì, c'è il vocione, cioè non è limpida come il Galaxy. C'è un vocione più tipo grande modulatore, Grandi modulatori! fa la voce mascola, come si dice. Vabbè, questo qui è il Cobra con il Super Sidekick. Quello sì, con la testa cromata, quello se non si alza troppo, perché poi diventa rimbombante, capito? Se no va bene. E infatti quando c'è propagazione forte non senti le stazioni locali basse tipo chi è macchia. Ascolta, il famoso apparecchio già, quello super artigianale, l'hanno messo in vendita o era un prototipo da tenere? Quale? A quello che riferisci? Quello meraviglioso, con il ricevitore SDR, il display, tre o quattro strumenti. Ti ricordi quel progetto folle che qualcuno aveva costruito? Che poi dentro c'è un Ranger 2950 come baracchino, più un ricevitore SDR separato. Ah, il Galaxy, stai dicendo, il nuovo Galaxy, il Galaxy DX, sarebbe quello lì. Non lo so, non l'ho più seguito, la verità, perché mi sto dando un'altra cosa adesso. Mi sto comprando animali, va. Quello mi pare, però che non venga messo in vendita, perché hai visto, dentro ci sono talmente tanti pezzi, l'SDR, schede contro schede, che se dovessero farlo in serie dovrebbero procurarsi una marea di base, di apparecchi base, no, di Ranger. Un saccaccio di roba, quello se poi lo mettono in vendita te lo fanno pagare non 1000 ma 2000 euro. Niente, sì. Quello lì anche l'analizzatore di spettro, c'è un sacco di roba. Eh già, però ricordati, a parte tutta la buccia, come anche come i superstar, no? Ma come i cosi, dentro alla fine c'hai o un 3009 oppure in quel caso un Ranger. Un Ranger 2950-2970. Niente di eccezionale, non è un HF, capito già. È sempre un baracchino, tutto con la buccia da apparecchio HF, che ne so io. Sì, così. E vabbè, comunque, dai, già un bel apparecchio, dai, si vede che è un bel apparecchio. Sì, ma infatti chi ce l'ha deve essere, come dire, soddisfatto di averlo fatto, montato e tutto. C'ha anche lineare dentro, tutto c'ha, tutto, dall'alimentatore fino alla... tutto quanto. Riprendi Luca, io stacco qua. Ok, buona serata a tutti, sentiamo, ciao. Ciao, bello te ne stai. Sì, già, se no non fa qua, dai, mi devo mettere ancora le scarpe. Ciao a tutti. Ciao, a conquistare stanno. Ehi, guarda. Ah, ok, ciao, bam, Antonio Bobolo, ci. Ehi già, ma ho notato la 27 è poca roba, pochissima roba, soprattutto sugli 10. Ma in tutti i canali poca roba. Lo so. Infatti tutti questi apparecchi che ho, mi pare che me li metto in vendita e me ne lascio solo due e basta. Sì, ma infatti anche quei baracchinetti là, cioè, sono debuttati. Anche il Rosmet, vabbè, Rosmet è buono, però poi ne ho letto certe anche sui Daiwa, già, lasciamo perdere. Ah, io quello che ho, la verità, quello che mi segna il Galaxy, mi segna quello, quindi penso che siano giusti come Rosmet, questi che ho io. Però l'alimentatore mi è andato in tilt, l'ho portato a aggiustare, ma non sono riuscito a aggiustarlo, Mi dispiace, perché è un peccato che un alimentatore che costa 200 euro. Di quale? Del Galaxy? No, l'alimentatore, quello che c'è da parte, con due strumenti grandi, rimane, sai come, tipo l'HP1000, rimane con gli strumenti così gruppi. Vabbè già, però cioè, l'alimentatore non è nemmeno un computer, non sa per mettere a posto l'alimentatore, forse non si troveranno i pezzi, certi componenti. No, il problema è che entra in protezione, è stato messo sotto carico con lampadine da 100 watt, ha tenuto tutta la mattina, poi è entrato in protezione di nuovo. Mi stava per telefonare che io stavo riparando e poi ha detto che si aveva ripreso il difetto. Ma com'era? Switching o trasformatore? No, è un proxy. Ma vabbè, sarà switching. Sai che gli switching sono ancora più semplici? Cioè, se li guardi dentro ci hanno due cagate in croce, vabbè. Forse non vale tanto già. Ehi, fai prima ricomprare, io avrei fatto così, l'avrei ricomprato. Eccomi. stavo ritirandomi. Comunque se la vogliamo organizzare, quando finisce tutta questa mondezza, io sono sempre disponibile. Cosa tu? Una serata. Dove la facciamo? Dove volete voi? Io a casa canto, sì, ma poi a una certa ora smetto, non è che faccio casino, qua non fa affatto. Ci vuole qualcuno che ha un posto, tipo il campano, allora si può ballare, si può fare tutto. Io ti stavo ascoltando, attaccato la casa da 1000 watt, con la Bluetooth. Ho messo il Bluetooth e ti stavo ascoltando a manettone. Non è tocca il mio impianto. Hai visto che le nuove rifatte? Sì, l'ho sentito, vai. L'avevo sentito tutti perché qua stavo facendo il karaoke quando tu me l'hai mandato. A casa c'era il karaoke, se ne sono andati da poco, perché l'altro giorno si sono trattenuti troppo, poi dicono ancora si mettono a bussare il muro e fanno casino, va. Allora gli ho detto, mi dispiace ma ce l'ho a una certa ora poi. Vabbè. Una sala ci vuole, tipo quella volta là, te lo ricordi? Così va bene, quando ha fatto la festa mia figlia. Eia. Dopo allora non c'avevo quello che ho adesso, se no gliel'avrei fatto io volentieri. E chi li gatti l'avevo organizzato a vivo? Sì. C'era la Sicurti, io, Antonio e Rubato, Sicurti. Sì. Con quello che io adesso l'avevamo fatta bella vero che si avvezza. E non mi ricordo come portare quello. Cosa era? Quello con i capelli tipo Bob Marley era. Se lo ricordo. Grazie a voi, Guiccio. Che voleva entrare, l'abbiamo fatto entrare. Te fatemi entrare a ballare. No, no, una festa privata, non potete entrare. Beh, carità. Ad era uno di colore, dai. Nemmeno di colore, era mulatto. Giamaicano. Esatto, era sì, tipo mulatto, dai, così, giamaicano. Con i capelli tutti quanti a boccoli così, come Bob Marley era. Sì, siccome Antonio ci aveva... Aspetta che non voglio sovramodulare. Siccome Antonio c'ha una stereo di tutto rispetto e un impianto luci di tutto rispetto, gli avevo detto bisognerebbe fare come una volta, prendersi una sala per feste private, un locale un po' che lì ci si riesca un po' bello a muovere, e fare come facevi tu già, quando mi hai detto che da giovane avevate la saletta, da ballo, portavate tutto, stereo, luci, bibite, sempre privata la cosa, no? Sì, quella era la sala appunto che avevamo fatto tutta a calcio espluzzo, c'aveva le arcate, fatta bene, c'era la cabina del DJ, tutto quanto. Luci psichedeliche, poi non avevamo fatto entrare un tipo di Randa la Mala e ce l'avevano tutta cagata e tutta rovinata. Non l'abbiamo più fatto poi perché non ne valeva la pena, ci avevano rovinato tutto l'impianto, stracciato i fili, tutto quanto di nuovo. Cappa, vabbè, qua non tocca da nessuno. Comunque si potrebbe fare, dopo che finisce questa cazzo di lock, cosa me la sortè, si potrebbe organizzare un tanto a testa e mettiamo formaggio, di tutto, a mangiare così me. Mettiamo a mangiare, roba così, mettiamo cosa ne so, un tanto a testa e poi facciamo, parliamo da notte, chi canta, chi fa, non è un problema. Cara gara, sul karaoke ce l'hai, sì. Poca roba c'ho, non ce l'ho, chi ce l'ha lo porta, io l'attacco, non è un problema, lo attacca al mixer. Ma basta prendere il telefonino, mettere il Bluetooth e via. E lo fa, come c'ho la cassa, basta mettere il Bluetooth e canti quello che vuoi. Scegli la canzone e te la metti, come facciamo noi a casa, o l'attacco il Bluetooth. Guarda che io ho dei microfoni molto professionali, non voglio così di pitturno, e vabbè cosa c'ho io, e quello lì non lo uso quasi mai perché faccio solo musica, c'ho il coso per appoggiarli, non c'è poco di roba. E vabbè tu hai fatto le cose alla grande, io ho una casa da 1000 watt, il microfono amplificato che si sente molto bene, è molto chiaro, forte anche, accanto a qualche mia figlia stasera che c'ha una bella voce, ti dico che è andata bene, ha cantato Adagio, che ci ha cantato Alleluia, Alleluia. Mille volte, dai già. Dai, 1000 watt sono importanti. Così c'è scritto, 1000 watt, poi che li dia o che non li dia, è un altro discorso. Io quando l'ho comprato c'è scritto cassa 1000 watt. Guarda che ci dimonta un impianto da 1000 watt dentro quella casa, non ci puoi stare. Mica un bel forte la casa che c'ho io, si sente un bel forte, poi che sia 1000 watt tu non lo so, magari scrivono cazzate, non lo so, però 1000 watt, quando l'ho comprato io me l'ho ordinato da fuori, l'ho comprato e si dico 1000 watt eccetera eccetera, costa una cazzata, e pompa forte, c'ha radio, c'ha pedina USB, c'è tutto qua. Vabbè, prendiamola per buono. Io ti dico una cosa, io sono, cioè, sono un professionista nel coso e lo so queste cose qua, cioè, perché anche sono molto esperto di queste cose qua. 1000 watt ti fa tremare il palazzo, 1000 watt. Lasciamo stare. Io, cioè, io non so come è fatto, sono 1000 watt, li ho sentiti veramente. Oh, yeah. Scusate, scappo, ciao, ciao a tutti, Gianni, Bombolo, Luca, tutti quanti, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo Marco, buon divertimento. Ciao, ciao Marco. Già, te lo sto dicendo per esperienza, che io ho maneggiato già qualche altra cosa, oltre a quello che ho io. La potenza, 1000 watt, non so chi poteva avere, chissà cosa che avete buttato in chissà saletta, quello potrebbe averle, 500 luna, quali potrebbe averle, chi ce l'ha 1000 watt davvero, erano? Quali? Quelle GBL che avete portato lì dentro, quella seconda festa. Ah! Chi ce l'ha davvero? Gli assomavano quelle. Vabbè, quelli sono del circolo, non è che siano nostri. Era del circolo ferroviario quello lì. Ma la caccia non è vostra? No, penso di no, però erano di qualche amico di Manuela, non lo so sinceramente, penso che fossero del circo però. Cazzo, 10 anni fa, Emi, Antu, 10 anni fa esattamente. Chi si già un nuovo amico Emanuele perché l'hai portato tu in macchina? Chi si già un po' male in voce? Ma quelle erano veramente... giustamente, professionale. Cazzo, io non so cosa costa una GBL. Ti buni, almeno ti devi mettere in tasca 300 euro l'una. Ti sto, guarda, la sto anche graziando, La sto anche graziando. Perché costano un bel soldi, costano. E quello che c'è con macchina, Lerz, non andavano bene. Già, sono due cose diverse. Uno è impianto di macchina, un impianto che devi suonare vero. Sì, vanno bene, ma per la macchina non vanno bene per una sala. Vabbè, per la sala ce ne sono di diverse marche che sono molto buone. Quelle che usano i compressi sono ben buone, le casse. Quelle che uso io è quella roba lì. Non è che sia di me, non c'è proprio chissà roba, Non stiamo parlando di... cioè, la roba professionale è un'altra categoria, Capito già? La roba professionale non entra nulla con la roba così. Stiamo parlando che ci vogliono parecchi soldi, ci vuole parecchio tutto già. Quindi lo sai come funziona. Cioè, un impianto finito di sub di tutto. Finito, un impianto veramente finito di tutto, che tocca la voce. Devi mettere in tasca 2000 euro, se ti battono pure. Tu quanto hai speso per l'impianto che c'hai? Io ho preso la seconda mano. Vabbè, comunque, se sapete che va bene. Mi è costato 600 euro, mi è costato. Vabbè, ma se c'è la passione, Antu, Se poi hai quel progetto che devi fare, già va bene. Scappa, è inutile che stiamo a girarci. Se tu hai roba buona, roba che... che tocca, con la garanzia e tutto, e non sbagli, o prendi FBT, o prendi RCF o GBL, o qualche altra cosa, o altro. C'è anche design, audio design, che suona molto bene, suonano, la verità, tanto di cappello. Audio Design Italia, capito? Sono italiane, anche FBT è italiana. Quelle pompano che cosa amara. Ehi, lo so, ma io a casa ho 3 impianti, non io non sono. C'ho quello del computer, che le casse sono lo stesso di quello delle furti. Con subwoofer, amplificatore, tutto quanto. Poi c'ho quello della mia compagna che è professionale, c'ha 2 casse, c'ha l'amplificatore con separato con bassi, treble, eccetera eccetera, che lo può regolare come vuoi, c'ha l'equalizzatore, tutto quanto. E poi c'ho quello di cucina, che già l'hai visto, mi sa, fatto vedere, quello lì è quello che dicono che è 1000 bar. Chiappa. Minchia cazzo, se avrei avuto i soldi e andato a Treme Musica, mi avrei preso subwoofer, tutto FBT, subwoofer, 2 casse da, mi pare che erano da 1000 l'una, erano, poi te l'abbia fatto intendere, quella è la sala, trema tutto lì dentro, Tanto stai un po' strappando, abbassa per appena. Perché parlo troppo alto. Vabbè, io avrei aspettato, tanto quando cambiavo casa, avere più spazio, e me l'avrei preso. Se c'è la passione, quando cambi casa, magari qualche più fai una camera proprio per queste cose. Già ci stanno, qua già ci stanno solamente. Volendo, va. Adesso lasciamo così. Ciao, un po' guidina. Cazzo, quelle veramente sono pesanti, quelle lì pompano un bel. Se no anche le auto professional non dispiace. Ma l'hai avuto questa occasione di prenderle, oppure stai dicendo solo se sei tu? No, non ho la possibilità per comprarla, perché ci vogliono parecchi soldi. Minimo ci vogliono 1500 euro. Quanto? 1500. Vabbè. Sono cose che costano, però almeno darò la soddisfazione. Con quelle balli veramente. Ma già si balla anche con quelle che abbiamo noi, già contentiamo, dai. Ci vuole la sala, se c'è una sala poi l'eco della sala ti fa anche l'amplificatore del suono, cazzo, lo vedi come ci sono. Quelle, anche quelle che ho io, più spazio hai, più pompano. Il vuoto li fa la cassa acustica, rimbomba, fa Già, sono fatte per quello. Sì, ma anche quella cassa che ho io è comoda, sai perché? Perché c'ha un accumulatore all'interno, tu lo stacchi dalla corrente e lo puoi usare per ore e ore e ore senza problemi, non si scarica, capito? Quello che c'ha di bello. Poi se lo vuoi montare anche l'elettrico, l'attacchi elettrico e via, non c'è problema, però c'ha un accumulatore interno che va molto bene. La batteria c'ha? Sì, c'ha la batteria, no, c'ha proprio un accumulatore questo mio, non sono batterie. Batteria, fidati tu. È un accumulatore, ma una batteria grande, non è batterie di quelle che si comprano, capito? Ah sì, Zen, c'è anche Fusaro quelle. Le batterie? Allora no. Vabbè. Non voglio insistere perché non l'ho mai visto, ma so che è un accumulatore di corrente e poi lo usi. Le batterie hanno una certa autonomia, questo qui cazzo dura ore e ore. Chiappa, se no sono belle le necche, mamma mia quanto pompano, guarda. Quelle che vende Ferraris a Sassari. No, non ho mai sentito questa marca, Necchi ho sentito la marca delle macchine da cucire, però come casse no. Io mi servivo solo via 4 novembre per le casse. notte a Fuggiaro. Oh, quello che vede strumenti musicali, mixer, non è presente, che sta in angolo. Sì, c'è audio design pure lui, già c'è roba buona già. Se c'è, ho comprato le cuffie Sennheiser lì, che c'è anni e anni, non sono mai fasciate. Lo so. E sono quelle che usano le DJ in discoteca, le Sennheiser, sono quelle leggere, di plastica, con le gommature, le fine fine, non ti pesano nulla, sembra che non ce li hai in testa. Le conosco. Io sono molto appassionato, sono. Stavo sognando di farmi un bel impianto e ci sono riuscito. Ancora non sono molto soddisfatto. Voglio metterci un bel sub da zicuzzento sotto. Così dovremmo tutto, rimane la gabisuria. Erano i sub che vende di casa, no? Chi sub un po' vero? Io guarda, come sub, come il Bose, non ne ho mai sentito così buoni. Ce l'avevo un amico mio, c'aveva le casse Bose piccoline, cazzo, perché c'aveva le Jens, erano quelle da 100 watt dello stereo. La moglie gli ha detto che erano sempre mezze piedi, erano troppo grandi, che quando va a pulire, allora si è comprato le Bose. Si è comprato il sub della Bose e due casse. Le ha appese al muro, sono casse piccoline, ma tocca di cosa male, se no il sub lo so. Io ce l'ho. Bose? Sì, ma l'uso a casa, l'uso. Sì, no. Lui aveva accolto quelle casse, l'ha regalato al cognato, quelle della Gese che c'aveva, perché c'aveva tutto Marans, Pioneer, tutta roba di vacca, capito? C'aveva i pezzi, proprio, non il cubo come si usa adesso, c'aveva proprio i pezzi. Ma Bose, la capisci? Bose è una buona casa. Perché Bose ti fa veramente i componenti come devono essere fatti. Se tu senti gli altri, li senti che sono tutti suffugati, cioè. Tu senti un Bose e tocca veramente. A me la matracca non mi piace che suona. Se tu senti lo stereo in macchina mia, quello della casa va benissimo, non ce n'è bisogno di impianto, perché c'è tutto, c'è subwoofer, c'è Twitter, Midrash, c'è tutto. Ciappa. Proprio il Bose ha un suono particolare. Sì, lo so, ha un suono proprio bello forte, bello corposo. Sono casse professionali del Bose. Cioè, con poco spazio ti dà un suono che è superiore a certe casse grandi. Anche le Yamaha, la verità. Sì, sono Yamaha, sono lo stesso buone. Yamaha, io conosco anche la tastiera, Yamaha è buona. Cappa, è inutile qua, se uno deve utilizzare materiale come si deve, deve cacciare i soldi, deve cacciare. Non è nulla di va. Allora tu, prima io andavo in via Nizza, c'era questo qui che vendeva strumenti a seconda mano, batterie, amplificatori, pezzi di stereo, di tutto e di più. Tipo Portobello, però di cosa buona, di cosa semi nuova, dai. E vedevo anche i dischi, io andavo a comprare i dischi, capito? Però vedevo gli strumenti, c'era gente che magari poi posso provare questa batteria, si busava, ragazzi, ve ne era uno, si è busato, la fatta rullare a velo. Uno che è professionista nel settore deve farla rullare. Vabbè. Quando lui l'ha sentito ha detto, vabbè, ma tu sono la batteria, sì, sono la batteria, e mi interessa questa qua, quanto la stai dando? Lui ha detto il prezzo, io ci mettiamo d'accordo e me la porti a casa. E lui c'aveva il camioncino che la portava tutto qua. Anche mio nipote si aveva comprato due piatti Technis, più l'amplificatore, tutta roba professionale, roba che si usava in discoteca. Infatti tant'è vero che ci avevano anche il coso, il moquette, per far girare il disco, per non graffiarsi. Era, a parte la base dove metti il disco, era il moquette, capito? Era molto bello e lui li usava, ci aveva fatto l'impianto in terrazzo, cazzo, se l'aveva messo sopra il tavolo e se li usava lì. E si metteva a fare il DJ, capito? Io me ne ricordavo, viste. sì, poi l'ha venduti e ci ha preso adesso la console e fa le feste all'Angela, dove c'è lui, dove ci sono tutti i ragazzi che non sono capaci di intendere di volere, sono tutti, quasi tutti così, dai, lui è il più sano. Quando fanno le feste lui suona, capito? Fa il DJ. Meglio così. Ti devo lasciare già, che fra un po' è pronto a mangiare. Cioè, sta cucinando Sara. Ok. Vabbè, ciao a tutti, sentiamo, buon appetito. Devo darle una mano, ci sentiamo. Beh, se no non se ne capo a bere. Ok? Ciao Sara, è qui Carruccio. No, che devo fare io, Iosso, hai gitta. Ciao, ciao. Chiamate. Tu sei andato? Perché stai uscendo tutto a fischi? Stai uscendo male, andato? E beh. Ma tu sei? E perché stai uscendo così male? Non si capisce niente. Io ormai esco, sono giù, cucinando la pasta. A me mi è duro, invece era già mi ha detto papà là, non capivo quello che diceva. No, non sono io. Dai, sono giù cucinando la pasta. Sì, anche io un pochettino, ma guarda la partita adesso, lasciate, acceso 10 minuti, anche io poi dopo vado a mangiare. Vediamo se Gianni ha sistemato. Oggi passa la bottarga. Non mi mangia troppo, sennò ingrassi il gruppo e non riesci a camminare tu. E io non riesci a camminare. Domani arrossita, facciamo. Festeggiare la zona gialla. Eia. Allora abbiamo fatto sabato scorso la arrossita. Ci siamo messi tutti i carti a tagliare e va giù ai punti. Avevamo una greffa grossa e poi abbiamo arrossita a pranzo. E la carne da chi la prende? La più buona di tutti, da Oggiano, in via Brigata Sassari. Vedi di via Zaffarino che non scherza, Sì, già lo so, no, ma questo è un amico da sempre. Poi penso che attualmente sono la più anziana di tutti di cosa. Ma hai capito quello che sto dicendo io? Io lo conosco, lo conosco. Io lo prendo lì e lo vado da cosa Marcello in via Tempio, giù dove fa il mercatino. O lì ho becca ma va carribona, Sì, no, ma ti hai presente che io canna non ne mangio, quasi niente, mi hanno fatto prendere il salsiccione. Mangio un pezzo di salsiccione, io carne, mangio pesce, non carri. Chiappa, domani biglio e me la bozzo. Adesso c'è qualcuno che sta entrando, avanti che vuole entrare. Guarda adesso come va, Robè. No, adesso già va bene, ma poi non capivo niente, pensavo che fosse Antonio, poi il segnale era basso, ho detto, Antonio arriva più forte, non riuscivo a capire. Adesso già la terra di ecco. Garax. Ma è Saturno ecco. Eia. Perché c'è questo bip diverso? Dai, bianco per me che io vado a bagnare la ministra, dai, ci sentiamo. Aspetta, ti parlate in due. Sì, Anto, vai, ci sentiamo magari dopo se coincide. Anto, lui, Anto, già cosa stai dicendo? Che c'ha il bip anche il microfono, sicuramente l'ha inserito. Guarda a vedere adesso. Infatti adesso io. No, non era brutto, era bello. Sembrava però un bip diverso al solito. Sì, va bene, tanto non è buono, non ne vale la pena, ce l'ha già la parigi. Vabbè dai, interessante che stia andando, mi sono spaventato, invece era dovuto al fatto che ho toccato ieri, a volte sbagli spegnendo, facendo al buio e non te ne rendi conto. Però cavane che tu riverbo.